Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Un pensiero particolare va alla Guardia di Finanza. Grazie per aver ascoltato l'urlo di disperazione di una madre che non poteva accettare di vedere suo figlio perdersi e ha provato con ogni mezzo di combattere la guerra contro la dipendenza prima che fosse troppo tardi. Queste, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le parole della madre del sedicenne che l'altro ieri si è suicidato durante una perquisizione in casa, in cui era presente anche la madre della Guardia di Finanza, perché lui aveva con sé 10 grammi di hashish. Oggi ci sono stati i funerali e si dibatte molto su questa vicenda, perché ci si chiede, intanto, naturalmente, se non si conosce nei dettagli la storia, ovviamente si deve andare con i piedi di velluto, però ci si chiede se effettivamente fosse stato necessario far irrompere in casa forze dell'ordine, Guardia di Finanza, per questi 10 grammi di hashish. La madre, l'avete sentita, dice che però era disperata, che non sapeva come fare per cercare di far smettere il figlio di fumare spinelli. Ora bisogna capire, appunto, se erano semplicemente soltanto spinelli, al di là che si possa essere contrari, oppure altro. Insomma, ci rifletteremo anche per come bisogna comportarsi, comunicare con gli adolescenti, che non è certamente cosa facile. E poi parleremo di politica, perché proseguono i travagli del PD. Oggi sembra che salga il rischio scissione. Fra l'altro, ci dovrebbe essere in corso, se non sbaglio, ancora in corso, una riunione del PD sulla legge elettorale. Ce ne occuperemo e ci occuperemo anche della partita, che è una partita storica, del Real Madrid e Napoli. Pensate che il Napoli è già in vantaggio per 1-0, ma poi man mano ci addentreremo anche in questo tema. Per le vostre interazioni qui a Effetto Notte, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, alla quale potete aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Quindi tutti questi temi poi da approfondire con i vari ospiti. Prima di tutto però vi racconto in sintesi la giornata. Il PD è l'ipotesi scissione, cresce il rischio spaccatura nel partito, il segretario rilancia, il verbo non è andatevene ma venite, e sintetizza: con il congresso salta il voto a giugno, stasera riunione sulla legge elettorale. Roma, la sindaca Raggi assicura, lo stadio non sarà una colata di cemento, ma non facendolo rischiamo una multa milionaria per il progetto già avviato dalla Giunta Marino. Gli inquirenti intanto valutano il giudizio immediato per Raffaele Marra, accusato di corruzione. Economia, l'OCSE alza le stime sull'Italia, debito in discesa. Stati Uniti, vertice tra Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Uno o due stati, dice Trump, l'importante è la pace. Dice a Israele, contenetevi sugli insediamenti. Intanto il congresso allenta la stretta sulle armi. Terremoto, la protezione civile invia a Bruxelles il fascicolo completo con la stima di danni e costi relativi al terremoto in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo per sbloccare i fondi. Si parla di 23 miliardi di danni. Il sedicenne suicida a Lavagna. Ai funerali la madre ringrazia i finanzieri che avevano perquisito la casa su sua richiesta. Il delitto di Elena Ceste, confermata in appello la condanna a 30 anni per Michele Boniconti, il vigile del fuoco di Castiglione d'Asti, accusato di aver ucciso la moglie. E per il calcio è la notte di Real Madrid-Napoli, una partita che non si giocava da 30 anni, e pensate, proprio in questi istanti è arrivato anche il gol del Real Madrid, quindi iniziamo praticamente con partita pari, 1-1 Real Madrid-Napoli. Ma ora partiamo dalle grandi manovre del Partito Democratico in vista dell'assemblea di sabato. Soprattutto torna a farsi sentire anche Renzi. Nella sua e-news dice: il verbo non è andatevene ma venite, e sintetizza: con il congresso tolgo alibi ai ricatti sulla scissione, e con il congresso non si va al voto anticipato. Nel frattempo Del Rio, Orlando e Franceschini cercano di mediare per evitare il peggio. Alla Camera una sessantina di parlamentari si è riunita per un ultimo tentativo di linea comune. Zingaretti, presidente della Regione Lazio, propone un manifesto per restare uniti. Enrico Rossi, Michele Emiliano e Roberto Speranza, che sono candidati a segretari, saranno al Teatro Vittoria sabato a Roma per costruire, dicono, un'azione politica comune. Il PD, dicono, è diventato il partito di Renzi, personale e leaderistico, però confermano la loro presenza in assemblea sabato. D'Alema nel frattempo propone una costituente del centrosinistra, un sacco di carne al fuoco, insomma, ma ne parleremo tra poco. Intanto in Campidoglio la Raggi accelera sul dopo Verdini. Potrebbe arrivare entro il fine settimana il nome del successore di Paolo Berdini. Serve una persona che parli di meno e lavori di più, ha detto stamattina la sindaca Raggi, replicando al suo ex assessore all'urbanistica che ieri si è dimesso accusando la giunta di pensare solo allo stadio e non alle periferie degradate. Sull'impianto di Tor di Valle la prima cittadina fa invece sapere che non è stato ancora raggiunto un accordo con la Roma sulla rimodulazione del progetto. Assolutamente non ci sarà alcuna colata di cemento, anzi stiamo ovviamente lavorando per capire se sia possibile trovare una via di mezzo, ma non c'è alcun accordo. In Campidoglio nel frattempo il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione urgente dopo l'intervista rilasciata oggi dall'ex assessore Paola Muraro, secondo la quale la nomina del direttore generale dell'AMA, la municipalizzata per l'ambiente, sarebbe stata fatta dalla Casaleggio e Associati attraverso un avvocato genovese, lo stesso legale che ora rappresenta il comune nella trattativa con la Roma sullo stadio, fa sapere il PD. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito dello stadio, in serata la sindaca Raggi ha scritto sul blog di Grillo che non facendolo si rischia una causa multimilionaria, perché dice: nel progetto che ereditiamo dello stadio a Tor di Valle ci siamo trovati un iter già avanzato e quasi a conclusione, che in altre parole significa causa multimilionaria, perché dice era stato già avviato dalla giunta Marino in accordo col PD, che hanno creato i presupposti, dice, per il mancato guadagno. Economia: in Italia la ripresa c'è, ma resta comunque debole perché la produttività non aumenta. Lo dice l'OCSE, che nel rapporto sul nostro paese rivede comunque al rialzo l'incremento del PIL, del prodotto interno lordo, della ricchezza, all'1% per il 2017. Stima confermata anche per il 2018. Sentiamo il segretario generale, lo conferma anche il segretario generale dell'OCSE. Crediamo che l'Italia deve concentrarsi in quattro sfide principali: aumentare la crescita della produttività e degli investimenti, 2, risanare il settore bancario, 3, sostenere la crescita dell'occupazione e migliorare le competenze, e infine diminuire la povertà. Italia che è alle prese con le spese straordinarie per il terremoto, un bilancio davvero molto pesante. La sequenza sismica, che dal 24 agosto non si è mai fermata, ha provocato danni per 23 miliardi e mezzo di euro, 12,9 agli edifici privati, 2 miliardi e mezzo al patrimonio culturale. È il bilancio che la Protezione Civile ha inviato a Bruxelles per poter attivare il Fondo di Solidarietà, una cifra che comprende sia i danni diretti, quelli cioè che hanno provocato distruzione di edifici, infrastrutture, raccolti, che hanno colpito industrie, imprese, chiese, monumenti, reti di distribuzione dell'energia, del gas e dell'acqua, ma anche costi sostenuti dallo Stato per far fronte all'emergenza, i soccorsi, gli alloggi provvisori, la messa in sicurezza di infrastrutture e strade, stime che considerano anche le integrazioni arrivate dalle regioni dopo la scossa del 18 gennaio. Rispetto al primo dossier presentato dalla Protezione Civile a Bruxelles per il periodo fino al 26 ottobre, la cifra è lievitata di altri 7 miliardi. L'Unione Europea ha già attinto al Fondo di Solidarietà elargendo una prima tranche di 30 milioni di euro, ma altri stanziamenti sono stati promessi. Corina Creto, commissaria alle politiche regionali, pochi giorni fa da Norcia ha assicurato: siamo pronti a finanziare la ricostruzione, metteremo tutte le risorse disponibili. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ora negli Stati Uniti, dove c'è stata la visita storica del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Washington, perché è la storica, perché è la prima volta col nuovo presidente Donald Trump, amico da una vita, conferma Bibi, così viene chiamato Netanyahu, e perché il presidente americano si sgancia da quello che era stato un imperativo per Washington e la sua politica nella regione fin dall'amministrazione Clinton. Trump cosa dice in conferenza stampa con Netanyahu? Affronta la questione dei due stati e dice che la soluzione sia uno o due stati, quello che loro preferiscono facciano, l'importante è che ci sia la pace. Il presidente americano invita Israele comunque a contenersi sugli insediamenti e si dice pronto a tutelare Israele nei confronti dell'Iran. Il Senato americano nel frattempo ha dato il via libera alla norma già approvata dalla Camera che abolisce i controlli per l'acquisto di armi da parte di persone con disturbi mentali. E a Bruxelles oggi i riflettori sulla difesa comune. Il presidente Trump ha un forte sostegno per la NATO, dice, giunto a Bruxelles per la prima visita in Europa, il nuovo segretario della difesa, il ministro della difesa americano James Mattis, ha rassicurato così gli alleati europei al fianco del segretario generale Stoltenberg. Sul tavolo però c'è il tema dei fondi per la NATO. Il capo del Pentagono ha chiesto agli alleati di aumentare il loro contributo per la difesa entro la fine dell'anno o, dice, gli Stati Uniti ridurranno il loro impegno. Sentiamo Che cosa ha detto a questo proposito la ministra della difesa italiana Pinotti? Gli Stati Uniti hanno confermato l'impegno nell'Alleanza Atlantica, considerandola fondamentale e un elemento di sicurezza al quale nessun paese dell'Alleanza può venire meno. E poi hanno sottoposto un problema, dicendo: il popolo americano, certo, ritiene sempre importante che gli Stati Uniti si impegnino, ma ha bisogno di vedere che anche gli altri paesi contribuiscono. E siamo alla cronaca. Nella chiesa di Santo Stefano di Lavagna, in Liguria, si è svolto oggi il funerale del sedicenne che l'altro ieri si è tolto la vita gettandosi dalla finestra della sua abitazione mentre era in corso un controllo della Guardia di Finanza, che qualche ora prima lo aveva sorpreso con della droga leggera, dell'hashish, durante un controllo fuori dalla scuola. Oggi la madre del ragazzo ha parlato ai funerali, ha detto: perdonami per non essere stata capace di colmare quel vuoto che ti portavi dentro da lontano. Lo ha detto Antonella Riccardi, appunto la madre adottiva del ragazzo suicida Lavagna, che ha ringraziato i finanzieri. Un pensiero particolare va alla Guardia di Finanza. Grazie per aver ascoltato l'urlo di disperazione di una madre che non poteva accettare di vedere suo figlio perdersi e ha provato con ogni mezzo di combattere la guerra contro la dipendenza, prima che fosse troppo tardi. Poi proveremo a riflettere, vi dicevo, su questa storia. Adesso invece c'è una conferma di una sentenza sul delitto Ceste. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha confermato la condanna a 30 anni per Michele Boninconti, il vigile del fuoco di Castigliole d'Asti, accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste, scomparsa appunto da Castigliole d'Asti il 24 gennaio 2014 e ritrovata senza vita in un rigagnolo d'acqua a poche centinaia di metri da casa il 18 ottobre successivo. Un delitto premeditato, secondo gli inquirenti, secondo i giudici, il cui movente, in attesa che i giudici depositino le motivazioni della condanna, resta quello scolpito dal GUP Roberto Amerio nella sentenza precedente, in cui diceva: l'idea insopportabile che la donna cercasse di evadere da una routine che la vedeva chiusa nel bozzolo di madre e moglie sottomessa ha spinto l'uomo a ucciderla. La Corte ha disposto il sequestro preventivo di tutti i beni dell'imputato, conti correnti e un terzo della casa a garanzia del futuro dei suoi quattro figli. E per chiudere il calcio, tra pochissimo sentiamo gli aggiornamenti sul risultato, ma intanto abbiamo raggiunto poco prima della partita Giorgio, il nostro Giorgio De Luca, che è autore di Tutti i Convocati, che va in onda tutti i giorni alle 14. Sentiamo un po' qual era il clima anche dei napoletani arrivati lì allo stadio. Ciao Roberta e buonasera a chi ti ascolta. Sono qui a Madrid, è una giornata di grande festa per tutto il popolo partenopeo, per tutto il popolo del Napoli, che ha letteralmente invaso Madrid. 10.000 persone sono arrivate da tutta Italia e da tutta Europa, mi viene da dire, per vedere questa partita di stasera Real Madrid-Napoli. Ho incontrato persone, pensa, che hanno fatto Napoli-Londra, Londra-Madrid. Oh. Alcuni hanno fatto scalo addirittura a Oslo per esserci, perché erano finiti i voli. Per adesso una festa continua nelle piazze di Madrid, tutto tranquillo, 2.500 gli agenti messi a disposizione dalla polizia spagnola, perché è una partita molto sentita, però per adesso mi sembra di poter dire che tutto è andato bene. Giorgio, so che tu avresti fatto anche scalo a Melbourne pure di arrivare a Madrid per... Io sarei andato anche a piedi, c'è gente che ha preso la nave e ha fatto Napoli-Barcellona, Barcellona-Madrid. Io fortunatamente da Milano sono venuto comodo con un aereo, però ti racconto veramente di tante persone che hanno fatto l'impossibile per esserci in quello che è una giornata storica, perché il Napoli non giocava con il Real Madrid da 30 anni in Coppa dei Campioni. Figurati. Giorgio, senti, tra l'altro c'è una presenza prestigiosa che Maradona, però c'è un piccolo neo, non so se è una cosa vera o no, e che è stato fermato dalla polizia perché avrebbe picchiato la compagna. Sarebbe stato interrogato stamattina dopo una notte difficile con la sua compagna, Rocío, argentina. Poi Maradona è riapparso nel pomeriggio al pranzo istituzionale della UEFA con la presidente De Laurentiis e tutte le due dirigenze di Napoli e Real Madrid, quindi poi è riapparso più sereno e quindi sarà nel palco d'onore del Bernabeu insieme al presidente del Napoli, De Laurentiis. C'è anche Paolo Sorrentino, premio Oscar italiano, c'è Walter Beltroni, insomma, i fratelli Porzio, sono arrivati in tanti. Grande pubblico da spolvere, grande, come si dice, per grandi occasioni. Compreso con Giorgio De Luca. Giorgio, grazie, grazie della tua corrispondenza te, e buon divertimento. Ciao, grazie. Ciao Giorgio. E per aggiornarci adesso subito Giovanni Capuano. Giovanni, 1-1 quindi? 1-1, sì, 1-1, siamo alla mezz'ora in questo momento ed è una partita stupenda che non sta tradendo le attese, e una partita che era cominciata benissimo per il Napoli, primi due minuti shock con il Napoli che praticamente non ha toccato palle, è stata salvata da Reina, poi però al primo affondo, all'ottavo minuto, si era portato in vantaggio con Insigne, un gol da 40 metri di prima intenzione incredibile con una palla nell'angolino a sorprendere Keylor Navas, portiere del Real Madrid. Da lì in poi la partita è cambiata, con il Real a caricare a testa bassa, con il Napoli senza mai abbassarsi troppo, a cercare sempre le ripartenze. Poi al 18esimo è arrivato il pareggio firmato da Benzema su cross di Carvajal con colpo di testa, c'è stato un errore nelle marcature in mezzo alla difesa del Napoli. Real che sta ancora attaccando a testa bassa, negli ultimi due minuti è andato due volte vicino al gol, prima con Ronaldo che ha sparato altissimo da ottima posizione, poi pochi istanti fa con un'altra conclusione dal limite sporcata da un difensore del Napoli, palla in calcio d'angolo. Però è una partita davvero bellissima e tra l'altro questa è una sfida che si gioca su 180 minuti e quindi il gol di Insigne è davvero pesante, comunque vada a finire questa sera nell'ottica del doppio confronto e della qualificazione. Però è un gran bel Napoli, è un gran bel Napoli che sta ovviamente soffrendo, ma a Madrid è impossibile non soffrire contro i campioni d'Europa e i campioni del mondo, ma appena può prova anche a far male. Grazie, buon divertimento. Allora Giovanni Capuano, poi ci aggiorniamo dopo sul risultato, vediamo come procede. Per il momento abbiamo detto 1-1, intanto vedo molti vostri messaggi sulla vicenda tristissima di questo sedicenne che si è buttato giù dal balcone durante una perquisizione della Guardia di Finanza in casa sua due giorni fa a Lavagna, e oggi sono stati funerali, abbiamo sentito un passaggio delle parole della madre, poi li risentiremo. Dice per esempio Walter: le forze dell'ordine sembrano dei bulli che fanno i forti con i deboli, Cucchi. Lavagna dice tra parentesi: sono deboli con i forti, black blocks, tifoserie, spacciatori. E poi invece un ragazzo, Robert da Carpi, dice: beh, io ho finito da circa 5 anni le superiori, posso garantirvi che l'unica lezione di qualcuno che possa parlare degli effetti della droga, qualcuno che possa parlare degli effetti post-droga, quindi gente che ne ha fatto uso per un anno, due anni, ma le ripercussioni che si hanno sull'organismo da qui a 10 anni, purtroppo è stata solo una, ecco, un po' confuso questo messaggio, dice comunque è stata solo una lacuna dello Stato, è il comunicare. Robert scrivi magari con più calma, ma diciamo in modo più chiaro. E poi dice quest'altro messaggio: volevo far notare alla madre che il figlio adottivo è morto non perché fumava, ma perché era così solo che si è buttato dalla finestra. Vicenda delicatissima, poi cercheremo di rifletterci. 349-238-6666 per sms e whatsapp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. In 60 minuti da seguire minuto per minuto, Roberta Giordano sempre con voi per essere aggiornati sui fatti principali della giornata e anche con sentendo gli approfondimenti con gli ospiti, quindi un giorno non potrete dire io non lo sapevo se avete seguito naturalmente Effetto Notte tutti i giorni dalle 21 alle 22. Tra pochissimo andremo sulla politica di questa settimana intensissima per il PD, poi vi dicevo naturalmente ci saranno altri temi, rifletteremo anche sulla vicenda del ragazzo suicida per le perquisizioni in casa della Guardia di Finanza e le riflessioni, le cose che ha detto oggi sua madre ai funerali. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre interazioni. Se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, vi ricordo comunque quali sono a questo punto i fatti principali. Aumenta il rischio scissione nel PD, la minoranza dice ormai è diventato il partito personale di Renzi, e Renzi a sua volta si fa sentire e dice con il congresso via ogni alibi, e salta anche il voto anticipato. Del Rio e Orlando intanto cercano di mediare. Colpo di tosse. Marra verso il giudizio immediato, Raffaele Marra accusato di corruzione insieme a Scarpellini. Intanto la sindaca Radici dice lo stadio non sarà una colata di cemento, ma dobbiamo farla a rischio, se no di una multa milionaria, visto che il progetto era già stato portato avanti dalla giunta Marino. E poi Trump a Netanyahu, c'è stato l'incontro storico tra il presidente americano e il primo ministro israeliano. Trump ha detto uno o due stati in Medio Oriente, l'importante è la pace, però contenetevi voi israeliani sugli insediamenti. E il Congresso, il Parlamento americano, allenta la stretta sulle armi e il controllo anche delle armi alle persone con disturbi mentali. E poi il ragazzo suicida a Lavagna per l'hashish, la madre funerale ringrazia la Guardia di Finanza e rivolta ai giovani dice vi fanno credere che fumare è normale. E poi il computo dei danni dei terremoti dal 24 agosto ad oggi, fatto dalla Protezione Civile, inviato in un fascicolo a Bruxelles per sbloccare i fondi, si parla di 23 miliardi e mezzo di euro di danni. In Sicilia, a parte irregolari, 52 miliardi di tasse non riscosse, la denuncia dell'amministratore dell'Agenzia Fiscale all'Antimafia. Quindi dicevamo una settimana particolarmente intensa per il Partito Democratico. Lunedì, come sapete, c'è stata la direzione del partito in cui è passato l'ordine del giorno di Renzi, cioè si va subito al congresso, ma è una direzione che in realtà ha spaccato ancora di più il PD, ne è uscito ancora più diviso di prima, tanto da far dire ieri a Bersani la scissione in realtà c'è già stata, c'è già, il partito è spaccato. Nella riunione di ieri sera a Nazareno, in cui si è confermata l'intesa fra Matteo Renzi e Dario Franceschini, il leader del PD ha chiarito che con il congresso a questo punto salteranno le elezioni anticipate a giugno, che era un po' una garanzia che voleva la minoranza PD di far proseguire tranquillamente Gentiloni, e poi hanno concordato i tempi del congresso, che dovrebbe concludersi entro aprile. Nell'iNews, nel suo organo di informazione, Renzi lancia oggi la parola d'ordine per il congresso e anche per l'assemblea di sabato. Dice: il verbo è del congresso delle primarie non è andatevene ma venite, portate idee, sogni, critiche. La minoranza però, dice, ormai è il partito di Renzi. Emiliano Rossi e Roberto Speranza dicono che la direzione praticamente di lunedì ha sancito la trasformazione del partito del PD nel partito di Renzi, un partito personale e leaderistico. Bersani sabato sarà comunque all'assemblea, dice ci vado, anche Emiliano ha assicurato che ci sarà comunque. E nel frattempo cosa succede? Che da più parti arrivano appelli a non scindersi. Il segretario per esempio del PD di Bologna, Francesco Critelli, ha praticamente parlato menzionando Neruda, e ha usato questo suo verso dicendo: soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. Ora io a Betta Fiorito, la nostra Betta Fiorito da Roma, non chiedo di essere così poetica, ma almeno chiara di chiarirci cosa sta succedendo, perché molti scrivono fateci capire, insomma, se davvero è una discussione ombelicale, se c'è della sostanza, dove si va, che partito è, che intenzioni ci sono. Betta. Allora, intanto la polemica sembrerà strana sulla data, cioè quando fare il congresso, che è quello che poi ha anche detto oggi Giachetti, ha detto attenzione, cioè se si discute pure sulla data, prima voleva la minoranza PD il congresso, adesso ce l'ha avuto, adesso lo vorrebbe dopo le amministrative, e questo sposterebbe comunque il voto in autunno. Ed è questo quello che Matteo Renzi non vuole dare l'idea del temporeggiamento. Dall'altra parte però c'è anche una questione di sostanza, c'è il fatto che 60 parlamentari hanno chiesto di eliminare i chiavilista bloccati dalla legge elettorale. I chiavilista bloccati erano uno dei cavalli di battaglia di Matteo Renzi, stavano bene anche a Berlusconi, non sono mai stati bene alla minoranza che vorrebbe le preferenze, e così avrebbe il modo anche di contarsi, perché chiaramente con le preferenze, se ci sta una lista che si può votare, chiunque può votare quello che è il candidato preferito, la minoranza potrebbe avere più uomini e non tutti verrebbero decisi, o comunque non, i posti chiave non verrebbero decisi dal segretario. L'altra cosa, abbiamo da una parte Renzi, dall'altra Massimo D'Alema, che tiene contatti ovviamente con la sinistra, cioè con Michele. Ha chiesto anche una costituente del centrosinistra, traduzione, sì, quindi sì. Per gli sì, ascoltatori. Lui ha detto che adesso i partiti sono diventati tutti macchine elettorali asfittiche. Ricordiamo però che D'Alema fu quello che azzoppò l'Ulivo, per cui il fatto che lui adesso si proponga come il costituente di una costituente di centro-sinistra sembra un po' ridicolo, perché poi fu lui ad azzoppare di fatto l'Ulivo. L'Ulivo di Prodi. Oltretutto D'Alema è sempre stato una persona che ha sempre distrutto quello che gli altri facevano nel Partito Democratico. Ora non è più parlamentare, non è più nulla in questo momento, insomma, sta rinascendo, ma sarà una rinascita abbastanza breve. Comunque l'accordo si potrebbe trovare su, appunto, su questi capilista bloccati, che sembrano un tecnicismo ma in realtà sono una questione di sostanza, cioè la minoranza potrebbe avere dei suoi uomini in Parlamento. Dall'altra parte c'è Matteo Renzi che ha detto già domenica e ha ribadito, allora facciamo il congresso, torniamo l'alibi alla minoranza, quello che ne esce vincente però deve essere poi accettato da tutti. Perché? Perché alla fine si potrebbe veramente verificare un altro paradosso della politica italiana, cioè si fa un congresso PD dove Matteo Renzi rivince il congresso, perché insomma attualmente l'unico un pochino che ha più numeri è Emiliano, ma insomma Rossi e Speranza non mi sembrano... Tra poco lo sentiamo Emiliano, è un passaggio. Sì, che abbiano così tanti... voti e quindi si potrebbe verificare poi paradossalmente che si faccia un congresso PD per stabilire quello che già c'è adesso, cioè che la segreteria avrà un 60-70% e la minoranza un 30%, quindi si verificherebbe quello che stiamo già vedendo. Altrimenti bisogna capire se la minoranza va via e succede che si dà poi adito a formare questa cosa rossa in cui c'è Pisapia, in cui ci sono pezzi di Sinistra Italiana che si è staccata da Vendola, in cui D'Alema dovrebbe poi fare da collante. La vedo dura perché insomma D'Alema non è mai stato un uomo che fa da collante, quindi anche Renzi è una persona che non fa da collante, però D'Alema meno che mai. Quindi qui ci vuole un po' di colla, ho capito, oppure dei sogni comuni. Beh, come dice Emiliano. Sentiamo Emiliano. Per stare insieme bisogna avere una visione comune delle cose, non è una questione di date, è una questione di politica e di sogno comune. Se il sogno comune non c'è, non c'è nessuna ragione per lo stare insieme. Non c'è questo sogno comune, quindi evidentemente, Betta, quale potrebbe essere il sogno comune del centro-sinistra? Ce lo devono dire il loro. I capilista che non sono bloccati, secondo me. La minoranza quello vuole, è inutile. È così sbagliato? Ma lì bisogna capire, perché ci sono i pro e i contro, sulle preferenze. I capilista non bloccati vogliono dire preferenze. Le preferenze vogliono dire che sicuramente, come ricordiamo, una persona che si candida viene votato e poi deve rispondere agli elettori. Però purtroppo nel sud Italia le preferenze sono state usate in modo clientelare. Ecco perché a un certo punto le segreterie di partito hanno richiamato a sé le deleghe per scegliere poi i candidati. Diciamo che ci sono pro e contro da ambedue le parti, è difficile. Ci sono i pro e contro da ambedue le parti. Il Movimento 5 Stelle agisce attraverso le primarie online, però anche lì il blog da chi è controllato, quanti sono gli iscritti al blog, che cosa bisogna fare, insomma. Anche lì insomma ci sono dei criteri che potrebbero poi non essere così trasparenti. Comunque non lo so, insomma, non so se il sogno comune sia soltanto una questione di preferenze o meno, Betta. Comunque vedremo, adesso sabato c'è l'assemblea, no? Sì, poi c'è un aspetto politico in cui Emiliano, Rossi, Speranza, D'Alema e Bersani lo ripete molto volte, molto. Beta sinistra, sì. Mentre Renzi guarda al centro. Quello è chiaro, questo è chiaro perché scontenta la minoranza a sinistra. Grazie intanto Betta Fiorito da Roma. Voi. Ciao Betta. E adesso direi senz'altro che è il momento di prenderci una pausa. Intanto vedo ancora i vostri messaggi, dice questo ascoltatore. Roberta, disinformazione porta a credere una madre che THC... cioè le sostanze legate alla cannabis, scrivete come mangiate, porta dipendenza, invece non porta dipendenza, solo gli alcaloidi portano dipendenza. Abbastanza chiaro, io non sono esperta di questo, però poi ne parleremo con uno psichiatra dell'aspetto più psicologico di questa vicenda, di come effettivamente ci si debba rapportare a degli adolescenti che possono anche naturalmente un po' tutti essere in difficoltà e a volte avere delle abitudini magari non particolarmente salubri, però ci si chiede appunto è opportuno o meno far entrare la Guardia di Finanza o delle forze dell'ordine a perquisire un ragazzo che magari a quell'età è fragile e può prenderla piuttosto male, spaventarsi, vergognarsi da morire. Ne parleremo tra pochissimo. 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele d'arenetta deliziose. Muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi Roberta Giordano. Adesso riprendiamo il filo dei temi, come al solito all'inizio il riassunto della giornata con i fatti principali, poi abbiamo parlato ampiamente della situazione particolarmente travagliata del Partito Democratico e dei tentativi di mediazione per scongiurare la scissione. Sabato ci sarà l'assemblea, anche se anche la minoranza ha confermato di esserci, ma insomma il rischio di scissione aumenta. Adesso invece cambieremo completamente tema, come vi dicevo, parleremo del ragazzo sedicenne che si è suicidato in Liguria durante la perquisizione della Guardia di Finanza perché gli aveva trovato addosso 10 grammi di hashish e le parole che ha detto oggi la madre ai funerali. Qualcuno continua a scrivere matrigna, sì, nel senso madre adottiva, lo avevano adottato a un anno dalla Colombia. Questo insomma importa relativamente, o forse sì, nel senso che qualcuno dice ma magari diventa ancora più difficile il rapporto con un figlio adottivo. Cercheremo di rifletterci tra poco. Intanto, per le vostre interazioni, sempre pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per i messaggi 349-238-6666. Sulla politica, sul PD, ancora tra i tanti messaggi. Per esempio, Andrea dice: il PD è solo un mega apparato che controlla e si nutre della smisurata burocrazia italiana con tutto quello che ha fatto, e sempre al 30% nei sondaggi perché ha in mano la vita di tanta gente. Dice Elena: dopo anni di queste manfrine personalmente mi sono stufata e dico una sola cosa, giù la Claire. Simone dice: la componente ex PC del partito non ha mai accettato l'idea che la componente ex DC potesse contendergli il partito, pensavano di mettere dentro i cattolici per prendere voti centristi, continuando a comandare loro. Renzi ha fatto saltare lo schema e ora sono la resa dei conti, l'altro che ci ha provato Prodi lo hanno mandato a fare il consulente. Tra pochissimo invece passeremo ai messaggi sul tema che sto per affrontare con il prossimo ospite. Intanto vi ricordo, se avete acceso la radio solo adesso invece che alle 21, quali sono le notizie principali. Il PD e l'ipotesi di scissione, cresce il rischio spaccatura nel partito, il segretario rilancia, il verbo non è andatevene ma venite, e sintetizza Renzi, con il congresso salta il voto a giugno, stasera riunione sulla legge elettorale. Roma, la sindaca Raggi assicura, lo stadio non sarà una colata di cemento, ma non facendolo rischiamo una multa milionaria per il progetto già avviato dalla giunta Marino. Gli inquirenti intanto valutano il giudizio immediato per Raffaele Marra, accusato di corruzione. Economia, l'OCSE alza le stime dell'Italia, debito in discesa. Stati Uniti, vertice tra Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu, uno o due stati, dice Trump, l'importante è la pace, e dice a Israele contenetevi sugli insediamenti. Intanto il congresso americano allenta la stretta sulle armi. Il sedicenne suicida a Lavagna, ne parleremo tra pochissimo, e poi il delitto di Elena Ceste confermata, in appello la condanna per Michele Buoninconti, il vigile del fuoco di Castiglione d'Asti accusato di aver ucciso la moglie, quindi condannato a 30 anni. Per il calcio la notte di Real Madrid e Napoli, e la partita prosegue 1-1. Innanzitutto questo messaggio è per voi ragazzi che state piangendo la scomparsa di Joe insieme a noi. In ognuno di voi sono presenti dei talenti che vi rendono unici e irripetibili, e avete il dovere di farli emergere e di svilupparli. Là fuori c'è qualcuno che invece vuole soffocarli, facendovi credere che sia normale fumare una canna, normale farlo fino a sballarsi, normale andare sempre oltre. Diventate piuttosto i veri protagonisti della vostra vita. E poi sempre la madre di questo ragazzo di 16 anni che, ripeto per chi si fosse messo in ascolto adesso, si è suicidato 2 giorni fa a Lavagna in Liguria, gettandosi dalla finestra in presenza della madre durante una perquisizione degli uomini della Guardia di Finanza in casa sua perché gli avevano trovato addosso 10 grammi di hashish. Queste parole sono della madre oggi ai funerali a Lavagna, dove c'era moltissima gente. Sentiamo anche il passaggio in cui la madre ringrazia i finanzieri. Un pensiero particolare va alla Guardia di Finanza. Grazie, per aver ascoltato l'urlo di disperazione di una madre che non poteva accettare di vedere suo figlio perdersi e ha provato con ogni mezzo di combattere la guerra contro la dipendenza prima che fosse troppo tardi. Lei ringrazia gli stessi finanzieri, l'ha detto il generale Renzo Nisi questa sera all'ANSA, comandante provinciale della Guardia di Finanza, si è rivolta a lei direttamente, a noi, ci ha chiesto di intervenire perché dopo innumerevoli tentativi di convincere il figlio di smettere di farsi gli spinelli non sapeva più che cosa fare. Molti vostri messaggi anche su questo argomento, per esempio c'è credo qualcuno delle forze dell'ordine, vediamo questo WhatsApp, colleghi, dice hanno fatto perquisizioni per molto meno, trovando tanto di più, tutti si concentrano sul ragazzo, ma il danno che fa uno spacciatore ai propri compagni e alla società è molto più alto, nessuno pensa al trauma che deve sopportare una persona che fa il nostro mestiere, che si vede suicidati davanti agli occhi un ragazzo, siamo esseri umani anche noi con i nostri pregi e difetti. Coinvolgo il professor Paolo Crepè, buonasera professor Crepè, buonasera. Psichiatra, scrittore, sociologo, che riflessioni fare su questa vicenda? Innanzitutto ho sentito anch'io, ho ascoltato anche adesso le parole di questa madre, ovviamente sono le parole della disperazione. Abbiamo perso tutti, non hanno perso solo i genitori, hanno perso gli amici di questo ragazzo, hanno perso gli insegnanti di questo ragazzo. La mamma giustamente dice ai ragazzi, rivolgendosi ai ragazzi, parlatevi, e questo sembra quasi banale, non lo è, perché oggi c'è uno schermo, oggi ci sono gli emoticons, le faccine che non permettono di parlarsi, permettono di comunicare, ma è un'altra cosa. Poi quando le cose vanno male, quando arrivano i nodi, nell'esistenza di un adolescente i nodi sono fisiologici, sarebbe inquietante un adolescente che non sia inquieto. Quindi è ovvio, mi chiedo però, me lo sono chiesto per tanti anni, è una riflessione che rifaccio oggi purtroppo, chi ci bada tutto questo? Per esempio dentro una scuola, ma non per dare la solita responsabilità agli insegnanti, ai presidi, però la scuola è una comunità dove i ragazzi vanno la mattina, escono all'ora di pranzo, a volte rientrano anche il pomeriggio. Che cosa accade? Accade solo che si interroga. Professor Crepè, mi perdoni se la interrompo, però questo ragazzo pare che fosse bravissimo, una grande promessa del calcio per il momento locale, ma insomma dicevano chi era il più bravo. Adesso noi, per quello che sappiamo, non possiamo entrare proprio nel dettaglio della sua vita, però è possibile, cioè io lo dico da una che non ha mai fumato né spinelli né sigarette, odio il fumo in tutte le sue forme per una questione di salute e non di morale, però mi chiedo, era opportuno addirittura far intervenire per degli spinelli la Guardia di Finanza? Un'ascoltatrice, per esempio Mariella, dice: la madre del ragazzo suicida ha sbagliato, doveva chiedere aiuto psicologico prima della Guardia di Finanza, quel ragazzo faceva uso di sostanze per problemi. Sì. No, non credo nemmeno io che sia giusto arrivare a... Ma quella è l'ultima spiaggia, però adesso parliamo tutti con molta facilità adesso. Il problema è che quella mamma è sola, bisognerebbe chiedersi perché una mamma nel 2017 in una cittadina ricca, benestante, perché è sola? Cosa c'è nella nostra comunità che ci impedisce di io capisco che sia separata, ma esistono le amicizie, oppure non esiste nulla, oppure siamo delle monadi, ognuno a casa sua, ognuno col suo dramma, e devi fare il sorrisino quando prendi l'ascensore sul pianerottolo. Professore, ma per concludere, se un'altra persona, un altro genitore dovesse trovarsi nella stessa situazione, proprio in sintesi, cosa dovrebbe fare? Le cose parlare, base? Parlare, cercare di capire che cosa c'è dietro. È vero che dietro ad uno spinello, ad un semplicissimo spinello, ci può essere il nulla una sciocchezza dei ragazzi che si vogliono solo divertire per una serata, oppure ci può essere un dramma molto più profondo. Per capirlo bisogna parlare. Parlare magari senza troppo terrorizzare. Senza terrorizzare, magari arrabbiarsi. Ecco, non si può militarizzare il disagio di una generazione. Questo mi pare abbastanza evidente. Chiarissimo. Però dobbiamo reagire. Se esiste una comunità, deve battere un colpo. Grazie professor Paolo Crepè. Grazie. Buona serata. Ora invece ci colleghiamo con gli Stati Uniti, il nostro Marco Valsani, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Caro Marco, buonasera. Buonasera a voi. Oggi sono venute tante cose negli Stati Uniti, il Senato che ha approvato l'allentamento della stretta sulle armi che era voluta da Barack Obama, addirittura anche abolisce i controlli per l'acquisto di armi da parte di persone con disturbi mentali, e questo la dice lunga, ma insomma. Poi il capo del Pentagono, James Mattis, lo abbiamo sentito, ha detto agli alleati della NATO alla riunione di Bruxelles di aumentare il loro contributo, cioè di dare più soldi, altrimenti anche gli Stati Uniti torneranno un po' indietro rispetto al loro impegno. Ma la cosa più importante, c'è stato questo vertice tra Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. In sintesi, che cosa si sono detti, Marco? Come in tutte queste opere di politica estera di Trump, la confusione, l'incertezza, l'imprevedibilità, gli shock sempre abbondano. Sostanzialmente si sono detti, soprattutto gli Stati Uniti, cioè, Trump ha detto fondamentalmente che la soluzione storica, diciamo così, adottata dagli Stati Uniti per il problema del conflitto israelo-palestinese, cioè quella, l'obiettivo dei due stati fianco a fianco, uno israeliano e uno palestinese, in realtà non è più un obiettivo strategico. L'importante è che si faccia la pace, ha detto Trump, poi che sia uno stato, due stati, non importa. Ecco, cosa ci sia dietro questa svolta è difficile dirlo, come è difficile dirlo per molte delle cose di Trump, perché poi delle due una. Una soluzione in un solo stato vuol dire uno stato non ebraico, quindi uno stato dove gli arabi, gli israeliani abbiano gli stessi diritti, non credo, non crede nessuno. Allora cosa vuol dire uno stato stile apartheid, dove ci sono dei bantustan per i palestinesi? Beh, difficile credo anche quella, quindi francamente le uscite trampiane continuano, diciamo, a sorprenderle, soprattutto per la così quella che appare all'esterno una così faciloneria e una superficialità straordinaria. Dopodiché Trump ha anche detto sarebbe meglio che Netanyahu così tenesse un po' a bada i nuovi insediamenti, al che Netanyahu ha detto non ci penso neppure, ne parleremo poi. Quindi anche su quello, francamente, tutta la retorica sul fatto siamo d'accordo, il rapporto straordinario tra i due paesi e così i sogni di futuri negoziati di pace, in realtà al momento, stando a quello che poi hanno detto concretamente i due leader, ecco, poggiano su dei pilastri che assomigliano più degli stuzzicadenti. E con questa metafora ti ringrazio e ti saluto. Grazie Marco Valsani da New York. Ciao Marco. Ciao, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo molto velocemente perché abbiamo altri temi: il PD e l'ipotesi scissione, cresce il rischio spaccatura nel partito, il segretario rilancia, dice il verbo per il congresso è venite, non andatevene, e sintetizza: con il congresso salta il voto a giugno. Roma, la sindaca Raggi assicura lo stadio non sarà una colata di cemento, ma non facendolo rischiamo una multa milionaria per il progetto già avviato dalla giunta Marino. Economia, l'OCSE alza le stime sull'Italia, debito in discesa, Stati Uniti ne abbiamo appena parlato, vertice tra Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu, uno o due stati, dice Trump, l'importante è la pace, e chiede a Israele contenetevi sugli insediamenti. Intanto il congresso americano allenta la stretta sulle armi. Il sedicenne suicida a Lavagna, ai funerali la madre ringrazia i finanzieri che avevano perquisito la casa su sua richiesta. Il delitto di Elena Ceste, confermata in appello la condanna per Michele Boninconti, il vigile del fuoco di Castiglione d'Asti, accusato di aver ucciso la moglie. E poi per il calcio prosegue la partita Real Madrid-Napoli 1-1. Spazio europeo. Europa 24 notte. Si va in Europa verso una legislazione europea sulla robotica. Tra le misure in arrivo, per esempio, regole chiare su chi deve pagare i danni procurati da un'intelligenza artificiale fuori controllo. Auto che si guidano da sole, droni che ricapitano pacchi, robot che consegnano cibo a domicilio, robot poliziotti, robot badanti. Lo sappiamo, non è più fantascienza, ma realtà, o perlomeno lo è quasi. Un futuro molto prossimo, bisogna prenderne atto. Ma cosa succede se una Google Car causa un incidente? Chi paga i danni di un'intelligenza artificiale fuori controllo? Chi compensa quei lavoratori che perdono il lavoro a causa della robotica? Regole chiare non ce ne sono, anzi, non ci sono proprio regole. È per questo che i parlamentari europei, che a gennaio hanno già lanciato un primo codice etico, chiedono alla plenaria di Strasburgo di approvare una raccomandazione europea affinché si arrivi presto ad una legislazione europea sulla robotica. Un primo step di un percorso che sembra ancora lungo, ma del quale sono convinti gli europarlamentari in maniera trasversale. Dario Tamburrano, Movimento 5 Stelle. Un'azione sulla robotica, diciamo, che sia in grado di affrontare quelli che sono gli attuali, soprattutto figure sviluppate dalla robotica, dell'intelligenza artificiale, non è comunque. Comunque le norme attuali non sono in grado di regolamentare quello che è uno scenario in fortissima evoluzione, sia per quanto riguarda la capacità dei robot di interagire con l'ambiente circostante, sia per la capacità di raccogliere dati, sia per la capacità di prendere decisioni. Quindi abbiamo comunque dei sistemi, vengono definiti ciberfisici, che possono agire direttamente nell'ambiente. E essendo dotati comunque di software evoluti di intelligenza artificiale, possono elaborare situazioni e prendere decisioni al posto dell'uomo. In estrema sintesi, si richiede che la Commissione faccia delle proposte legislative, soprattutto al discorso dell'etica, al discorso della responsabilità dei robot che agiranno all'interno della società, responsabilità di tipo materiale per eventuali danni o anche di tipo economico, e di valutare, e questa è una delle cose fondamentali, qual è l'impatto dell'automazione dei robot e dell'intelligenza artificiale nel complesso, diciamo, nel mondo lavorativo della società, e quindi anche l'impatto sui sistemi di welfare. Ci sono numerosi studi che parlano di un grandissimo impatto sull'occupazione in tempi rapidissimi. Il World Economic Forum del 2017 parla di una scomparsa di 7 milioni di posti di lavoro nei prossimi 5 anni nei 15 paesi più sviluppati, con la rigenerazione di solo 2 milioni, quindi 5 milioni di posti di lavoro persi. Ma questo è solo uno dei tanti studi. Si pone il problema di come sostenere il welfare, e si ipotizza, non solo in Europa ma in molte parti del mondo, la messa in campo di un reddito universale di cittadinanza. Questa è una vostra proposta? Noi abbiamo lavorato affinché questa proposta, che era in nuce nel rapporto iniziale, venisse normata ancora meglio, più sottolineata, ma non è solo del 5 Stelle, ma è una posizione di diversi gruppi qui al Parlamento Europeo. Una risposta probabilmente una delle poche possibili di fronte a questo scenario che si sta profilando davanti. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora vedo che in vantaggio il Real Madrid, Giovanni Capuano, è vero? Eh sì, è vero, purtroppo è arrivato il 2-1 del Real Madrid al quarto minuto di questo secondo tempo. Siamo in questo momento appena entrati nell'ottavo minuto, il gol lo ha segnato Toni Kroos, ma è stata una grandissima giocata di Cristiano Ronaldo, sulla destra è andato sul fondo dopo aver saltato Koulibaly, invece di provare la conclusione ha alzato la testa, ha visto Toni Kroos che stava arrivando al limite dell'area di rigore, passaggio a raso terra, Kroos di destro, abbattuto di piatto per Reina, non c'è stato assolutamente nulla da fare. È un Napoli che sta soffrendo, avevamo detto prima che cercava di ribattere colpo su colpo, però da lì in poi la partita è cambiata. Il Real ha avuto grandissime occasioni dopo il pareggio di Benzema con Cristiano Ronaldo, ha colpito un palo esterno con lo stesso Benzema al 42esimo del primo tempo, e poi in questa ripresa, come raccontato, al quarto minuto è arrivato il gol del 2-1 di Kroos. Siamo quasi nel nono minuto di gioco, attacca ancora il Real Madrid che sta conducendo 2-1 al Bernabeu, ora ci prova con Marcelo, conclusione dalla distanza, palla che si perde alta. A te. Che speranze ha il Napoli, Giovanni? Il risultato resta buono comunque, perché il gol in trasferta è pesantissimo, vale doppio, dovesse finire così al San Paolo basterebbe vincere 1-0 nella gara di ritorno, però è vero che dopo una discreta prima parte di primo tempo sta venendo fuori tutta la differenza tra Real Madrid e Napoli, però io ripeto, è ancora lunghissima. Grazie Giovanni Capuano. E noi però tra pochissimo dobbiamo fermarci. Alessandra scrive: mi è parso di capire dal vostro racconto che la perquisizione è avvenuta su richiesta della madre, questo è un elemento dirimente, per favore potete chiarirci questo punto, l'abbiamo abbiamo ripetuto più volte, Alessandra, sì, le ha chiamati lei, le ha anche ringraziati. Andrea, sulla pagina Facebook di Effetto Note, dice: le parole della madre sono aberranti, non sa niente dell'utilizzo della cannabis, proferisce parole a caso, foglie di un bigottismo moralista incredibile nel 2017, anche se figlie del dolore. Sicuramente di tanto dolore. 3-1 per il Real Madrid in questo momento, e su questo risultato ci lasciamo brevemente, poi ci riaggiorniamo tra poco alle 22.